Abbiamo studiato nella scorsa lezione di Chassidut, in questo Kuntres Umayyan, in questo discorso che è intitolato Umayyan, del Rebbe Shalom Dovber, il quinto Rebbe di Lubavitch, che riporta dai Chachamim, i maestri dicono nel trattato di Sotah nella Gemara, che una persona non farebbe alcun peccato se non fosse per questo spirito di follia che gli entra dentro, che si trova dentro della persona, che sarebbe gli Yetzer Hara, sarebbe tutto ciò che è associato agli Yetzer Hara. E perché si chiama follia? Ha spiegato che è una follia perché dà delle idee folli in testa alla persona, mette delle idee folli, cioè io faccio quello che mi pare, faccio anche un peccato e comunque rimango nella stessa maniera vicino e attaccato ad HaKadosh Baruch Hu, perché tanto è solo una cosa così. Quando la persona è diciamo presentata con una messa davanti ad una situazione che palesemente fa sì che sia separato dalla sua fonte, come l'esempio che abbiamo fatto estremo della idolatria, allora lì, anche se dovesse rimanere in pericolo, anche se dovesse sacrificare la vita addirittura, non lo farebbe perché sente, vede chiaramente come questa cosa lo stacca dalla sua fonte e lo fa andare mai sia contro HaKadosh Baruch Hu. Allora lo spirito di follia è proprio questo, è che la stessa logica in realtà si applica a qualsiasi cosa che non è la volontà di HaKadosh Baruch Hu, che è contro la volontà di HaKadosh Baruch Hu. E saremmo pronti, se realizzassimo questo, saremmo pronti a sacrificare quel desiderio, quel volere, quella tentazione, quella cosa che sia, per rimanere vicini, per rimanere che rimanga intatto il nostro legame con HaKadosh Baruch Hu. E avendo fatto questo discorso abbiamo anche detto che quando la persona si allontana da HaKadosh Baruch Hu andando contro la sua volontà, nello schema delle cose a livello cosmico è come se la persona si mette al di sotto di livello, al di sotto anche degli ultimi strati della creazione, cioè quegli strati dove noi vediamo solo ego, solo il prendere e non il dare, solo il ricevere, come se dicessimo, lui fa riferimento a animali impuri, selvatici, eccetera, cioè come dire, anche laddove in teoria siamo molto lontani dalla luce di HaKadosh Baruch Hu, comunque non siamo contro la luce di HaKadosh Baruch Hu. Quello è il loro compito. La persona invece che va contro la volontà di HaKadosh Baruch Hu si mette anche al di sotto di questi livelli qua. Nel momento, abbiamo concluso l'altra volta dicendo che nel momento in cui la persona fa un peccato, anche un peccato avverà calà, anche una cosa leggera, tra virgolette, ma in quel momento si trova lontanissimo, il massimo della lontananza dalla Kedushah, dalla santità di Hashem, peggio di qualsiasi altra cosa che può essere considerata impura o invalida, eccetera, eccetera, che riceve la sua vitalità dalla Sitra Achara, dall'altra parte. Cioè, come dire, quando qui c'è una parentesi, quando noi usiamo il termine mutar, permesso, e assur, vietato, diciamo nel contesto magari di cibo, no? Diciamo il contesto del cibo. Allora, il cibo che è permesso, mutar, e il cibo che è assur, è vietato. Ora, se noi pensiamo in realtà, in ebraico i termini mutare e asur si traducono più direttamente non con vietato e permesso, ma con legato e slegato, aperto. L'esor vuol dire letteralmente legare e l'ehatir vuol dire aprire i nodi, sciogliere i nodi, sciolto e legato. Allora, perché? Perché quando diciamo mutar, una cosa è permessa, perché è permessa? Perché sul livello cosmico la cosa è sciolta dal legame con le klipot, cioè con le forze negative, con ciò che è contrastante alla kedushah. Quello che abbiamo chiamato Sitra Ahara, l'altro lato. Ciò che invece è Asur, è vietato, vuol dire nel senso che è legato a quella realtà e da quelle realtà. Di conseguenza, noi non abbiamo la possibilità di mangiare o che sia un altro tipo di cosa fuori dal mondo alimentare. In Italia parliamo sempre di cibo. Qualsiasi rapporto con quella cosa, perché non abbiamo la possibilità di farla elevare, visto che è legata nel mondo della Sitra Ahara, dell'altro lato. Ecco perché poi nello schema cosmico delle cose in questo mondo risulta come una cosa che è Asur, vietato, però legato dalle forze della Sitra Ahara. Così era la volontà di HaKadosh Baruch Hu. L'esperienza dell'essere umano, ed in particolare nostro dell'ebreo, cos'è? È di, in quel mondo neutro, perché ciò che è Asur è legato, è vietato, non si prende in considerazione. Ciò che è invece obbligo, quindi mitzvah, ugualmente non si prende in considerazione, nel senso è scontato che va messo in atto, va presa quella strada. Il mondo del mutar, cioè ciò che è sciolto da quel legame, ma non è nemmeno obbligo usarlo o farlo, quello che sia, lì sta il nostro libero arbitrio. Lì sta la nostra possibilità di andare in due direzioni, come se ci fosse un elemento neutro, questo bicchiere d'acqua che non è legato, non è vietato, non è neanche obbligatorio berlo. Allora dipende come la prendo. Se io prendo questo bicchiere d'acqua e recito la Berakha riconoscendo la fonte vera di questo bicchiere d'acqua e bevo l'acqua per poi... Esatto, per rinfrescare la bocca, per fare una lezione o per essere sano comunque, per servire Hashem in qualsiasi maniera, allora quella cosa sciolta, quell'acqua neutra, rientra nella Kedushah, entra a far parte del mondo della Kedushah. Se invece io rinfresco la bocca per parlare la Shonara, allora fare una cosa che non si può fare con quell'acqua, allora non è più neutra, ma nell'altra direzione. La faccio abbassare al mondo delle Klipot come le cose vietate. Questo si chiama Klipat Noga, è un tipo di Klipa che non è né di qua né di là. E dipende da noi come andrà a finire. Allora, in questo senso abbiamo più chiarezza sul concetto di vietato e permesso, e sul concetto di quello che è il mondo in mezzo, neutro, e dipende in base alla nostra decisione, al nostro comportamento, come va a finire. No, Gavo di neutro, più o meno. Letteralmente no, Ok, però è nel inteso senso. così, sì. Quindi schematicamente c'è un mondo di mezzo, diciamo, dal quale ci sono aperte le strade, in base al nostro comportamento, per muoverci verso l'alto Esattamente, non muovere soltanto noi o verso... No, stessi, diciamo, ma anche riflesso far sulle azioni. muovere il riflesso su quell'elemento lì. Ok? Ora, quindi, tornando a noi, abbiamo detto quindi l'effetto dell'andare contro la volontà di HaKadosh Baruch Hu è quindi di come se ci si ponesse al di sotto, sull'ultimo livello dello schema di tutto ciò che esiste. E poi adesso aggiungo un'altra cosa. Vediamo il testo, a pagina Scusa, Shalom, 100... allora, Sì, però, dimmi, dimmi. questo Yetzer Hara e quant'altro è nel campo neutro, perché voglio dire, abbiamo detto, quello che è vietato sarebbe vietato, oppure lo Yetzer Hara o meno è il Yetzer nel Hara, continuare a fare le grazie. Cose che di per sé sono vietate. Il Yetzer Hara è come un è come un uno che il suo compito è di indirizzarci verso la parte negativa. Questo è il suo compito. Cioè la persona deve scegliere. Perché deve scegliere? Perché non va naturalmente verso la parte giusta? Perché HaKadosh Baruch Hu lo mette alla prova. Lo mette alla prova inserendo dentro di lui questo Yetzer Hara. Quindi il Yetzer Hara stesso in realtà fa il suo compito. Certo, nello schema delle cose non fa parte del mondo neutro, fa parte del mondo della Klipa, cioè della buccia, della parte esterna, della parte della Sitra Achara, dell'altro lato. Ma la difficoltà non è appunto allora a questo punto, per quello che ci hai detto, essere bravi o comunque essere capaci a elevare la Kedusha e muoversi nel campo neutro, perché si sa quelli che sono gli obblighi. Assolutamente e quello sì. Che è negativo. Certo. La bravura è stare sempre nel mezzo e fare in modo che diventi sempre più positiva. Esattamente, assolutamente sì. Se cioè no è tutto scritto quello che è vietato e quello che... Assolutamente sì. Infatti, è semplice dirlo, però, però è chiaro che... lo schema è... Questo è anche un modo per insegnare a come... Per capire, per insegnare, assolutamente e sì. Se il ragionamento è... Attenzione, qualsiasi tipo di trasgressione è come... È fuori dallo schema. Come la Vodazzara. Esatto. Se ragioni così, e questa è la follia... Idealmente lo sai. Sì. Sulla carta dovrebbe essere. Sulla carta stai a posto. Ora poi anche se hai risolto questo aspetto, cioè non cadi nel peccato vero e proprio, c'è tutto il neutro che è lì che bravo, questo volevo dire. Sì, no, assolutamente, lì che veramente si dovrebbe svolgere la lotta. Questo volevo dire. Lì è lì che si dovrebbe svolgere, scusate, più che altro la lotta quotidiana nostra interna. O il Tzaddik, o si vede il Tzaddik, il Tzaddik è già un altro livello. Chi rispetta tutte le mitzvot non vuol dire che è un Tzaddik. Questo volevo dire. Cioè, okay. Chi nel campo neutro deve lottare. Sì, bravissimo. Sì, però non è ancora Tzaddik. No, vabbè, volevo dire Tzaddik nel senso no, vedremo. Si muove verso. Questo si chiama Beinoni. Quello che sta tra il tzaddik e il malvagio. Il malvagio è quello che in quel momento sta nel mondo della negatività, nell'altro mondo. Il tzaddik, lo tzaddik, è quello che in realtà è come se non avesse neanche gli Yetzer Hara. Un'altra cosa, un livello particolare. Però la persona comune, e non è un livello, persona comune, nella persona comune ci sono... miliardi, ognuno è diverso nel suo essere persona comune, però la lotta sta in quel campo lì, nel campo neutro. Certo, la lotta può anche essere nel campo inferiore a quello neutro, però se parliamo a livello ideale, quello dovrebbe essere scontato, che come dici tu, quello che abbiamo detto, se tutti i peccati stanno in realtà sullo stesso livello, allora bisogna escluderli tutti e lottare nel campo neutro. Se sei nel campo neutro assolutamente sì. Cosa dicevano i Hasidim? Magari Benoni, Alevai Benoni. Siamo un mezzo di Kadosh Baruch Hu, quindi per portare a Kedusha in questo mondo noi. Certo. Se dobbiamo trasformare questo mondo neutro. Assolutamente sì. Kedusha. Certo. Viene fuori. Certo. I maestri dicono che ben makom shebalei tshuva omdim, il luogo, il livello dei balei tshuva, di chi è stato nel campo negativo, è riuscito ad uscire fuori, e afilu tzadikim gmurim enam yecholim la'amod sham, anche i più perfetti tzadikim non possono stare a livello di bal tshuva, di chi ha fatto la tshuva. Ok? Beh. È valido anche per quelli che si sono convertiti all'ebraismo? È valido per qualsiasi ebreo. Chi si è convertito all'ebraismo è ebreo come chiunque altro ebreo. E può essere tzaddik, può essere balciuvà, può essere peccatore, può essere tutto. No. Chi si è convertito all'ebraismo? Chi non è diventato, non è nato ebreo. Si converti, c'ha più meriti. È un'altra parentesi, papà. No, c'ha un più meriti. un'altra cosa. Dai, no, non finiamo più. No, no. No, visco che ormai è ebreo, vuol dire che sì, ha avuto la potenza più forte per diventare ebreo. È vero, però non è una garanzia. Vuol dire, una volta che diventa ebreo, ha le stesse sfide che hanno chi è nato ebreo. Quello che dico. Quindi può facilmente anche lui cadere al di sotto, sì, o risalire al di sopra, a seconda della sua bravura. Però è predisposto già alla battaglia. Sì, in un certo senso, sì. Sì, è così. Ok, allora. Scusate. Ulevad Kolan Isgarlel, pagina 135, secondo paragrafo. Ulevad Kolan Isgarlel, oltre a tutto quanto abbiamo menzionato prima, Bevchinat haperud varichuk meod, shenaseh alidei maaseh avera, rachmana litzlan, riguardo alla separazione e la grande lontananza che è causata attraverso l'atto del peccato, Rachmana Litzlan, vuol dire che Dio ci salvi, in aramaico, inne agliedese, oltre a quello, anche tramite il peccato cosa succede? Gam ken, nifgam nafshov nisfak melokut. Oltre alla lontananza, c'è anche un pegam. Pegam vuol dire come un difetto. Ora vediamo cosa vuol dire, però per introdurre il concetto. Un difetto nell'anima è un distacco dal divino, melokut, dalla divinità. Ukemosh e katuv bigeret ateshuva, nella parte del Tanya che è come una tesi sulla teshuva dell'autore Alter Rebbe, Rabbi Shneur Zalman, beperush Yaakov hevel nachalato, quello che ho indicato già alla fine della scorsa lezione, riguardo quanto è scritto nella Torah, nel libro di Devarim, che Yaakov è la fune della sua eredità di HaKadosh Baruch Hu. Perché si usa il termine della metafora della fune, della corda? Ecco, Shehu, cioè c'è un hevel, come se ci fosse una fune, Hamekashera Neshama Lelokut, che lega l'anima al divino, Lelokut. Ukemo hevel, così come una fune. Sherosho echad kashur lemala ve katzeo lemata, che è legata questa fune, una parte, una estremità in alto e un'altra estremità in basso. Vehu, che nella neshama, cosa è inteso per questa metafora? Uam shachata neshama mishorsha, è l'arrivo, la discesa della neshama dalla sua fonte, che cabalisticamente mehei tata ad shema vaye, dalla seconda lettera hei, il livello spirituale rappresentato dalla seconda lettera hei del nome di Hashem, ci sono due volte la hei, yud kei vav kei, la seconda hei nei livelli spirituali è la fonte della neshama, dell'anima. E misham, da lì in maniera figurata, non da lì come posto geografico. Da lì nimshechet vioredet laolam haze, viene derivata e scende verso questo mondo, litlabesh begufa adam. Questa è la seconda estremità in basso, cioè quando la neshama si veste, si fa vestire dal corpo umano. Allora perché di nuovo l'esempio della fune? Allora l'Alter Rebbe dice nel trattato sulla Teshuvah, Ukemo al derech mashal, così come possiamo fare l'esempio, il mashal, mechevel av, da una corda, una fune molto spessa, shazur mitariag chavalim dakim, che è, come dire, shazur, filata, intrecciata, da 613 tafresh yud gimel, sono 613 fili fini, kacha, nella stessa maniera hevelam shacha, quel fune di legame tra Aniskarle, di cui dicevamo prima, tra la neshama e la fonte della neshama, kalul mitariag mitzvot, è composta questa fune dalle 613 mitzvot, cioè questi sono i fili che compongono la fune che lega la Neshama alla sua fonte. Ukeshover chas veshalom alachat mehenna, e quando si trasgredisce mai sia una di queste, nifsak hevel adak, quel filo fine si spezza. Umimele, e quindi nasech alishut gam bichlalut hevel, diventa una debolezza anche nella fune in generale. Ubechayave keritot rachmana litzlan, e quando si tratta di qualcuno che è passibile di karet, keritot è il plurale di karet, cioè una cosa molto grave nella Torah, nelle mitzvot, allora nifsaka hevel le gambre, allora lì la fune si spezza completamente, venichlat nafsho rachmana litzlan, e la sua anima si taglia. La parola karet vuol dire letteralmente tagliato, tagliato fuori, cioè il legame è tagliato completamente. Allora, la Neshama rimane qui, però il legame torna su. No, no, la Neshama rimane qui, ma staccata dalla sua fonte, come se non fosse più in contatto con la sua fonte spirituale, divina. E solo, come vedremo, solo in contatto con la Sitra Achara, l'altro lato. Ok? Non si parla di una morte fisica. No. No, no, no. Non è morto. Si parla di una morte spirituale. Il corpo rimane così. Esatto. Poi vediamo, anche a questo c'è rimedio, vuol dire la Teshuvah può rimediare anche questo distacco, può ristabilire il legame con la Teshuvah. Non c'è nulla che può fermare la Teshuvah, dicono i maestri. En davar haomed bifnei Teshuvah, non c'è nulla che sta davanti a bloccare la Teshuvah. Però nel momento è un distacco totale. Venimza viene fuori. Ma shal yedei ha-satan nizkeret leel, nichshal b'maaseh ha-chet. Quanto abbiamo detto prima che quando gli Yetzer Hara porta la persona, lo seduce, lo porta a fare il peccato. Urak mitzad ha-ruach shtut, shemechaseh u-maviro al da'ato. Chiaramente che è causato da quello spirito di follia che copre la verità. U-maviro al da'ato vuol dire letteralmente lo fa impazzire. Cioè come se diventa folle per quel momento, diventa un folle perché non usa la logica, la ragione. Avalim lo hayan nifteli pituya yetzer, se la persona non si fosse fatta sedurre dal yetzer, ve hayan roeta emet ke moshehu, e avrebbe visto la verità così com'è, cioè, di nuovo, che si allontana da Kadosh Baruch Hu attraverso l'atto del peccato, in una grande lontananza, betachlita richuk, beim kesheol, negli abissi più bassi, le mata, tachat umata sitrachro klipata vodazara, al di sotto, come abbiamo spiegato prima, al di sotto della sitrachra ed anche dell'impurità dell'idolatria, Hashem ishmarenu, che Dio ci protegga, e viifgom nafsho, e poi abbiamo aggiunto prima, adesso oggi, cioè anche il pegam, anche il difetto dell'anima, rachmana litzlan, kanizkar leel, che Dio ci salvi, allora mitzad ahava mesutere cebo, se invece lui avesse fatto ricorso, diciamo, avesse usato, avesse tirato fuori la ahava mesutere, cioè quell'amore nascosto, Sheinoya Choliot Nifrad Melokut, un amore così profondo nell'anima, che però spesso è nascosto perché bisogna tirarlo fuori, ma per quel sentimento della Neshama non solo non vuole, ma non può proprio essere separato dal divino. Allora se avesse potuto tirare fuori in quel momento quel sentimento, Lo Hayan Nichshal Klal Bemaseh Achet Beshumofen, non ci sarebbe stato alcun modo che la persona sarebbe caduta in quel comportamento, in quel peccato. Allora possiamo dire, forse, che l'atto del peccato nel senso spirituale della cosa è come un suicidio spirituale, dove una persona non sa o in quel momento non si rende conto di quello che sta facendo. Facciamo l'esempio dal mondo fisico. Allora, se uno dice io salgo sul tetto e mi butto giù, sa che si sta suicidando, è conscio di quello che sta facendo. No, nel senso che è chiaro che se vai dal tetto e ti butti giù, è chiaro che... più vicino alla sua... Sì, no, però sto dicendo un'altra cosa. Sa quello che fa. Sa quello che fa. Se invece tiene un comportamento nocivo, che però il risultato nocivo non è immediato, come dire uno che fuma 3 pacchi al giorno di sigarette, no? Allora è chiaro che non è che prende la sigaretta e l'accende dicendo io adesso mi sto suicidando. Può, probabilmente non toccherà a me, probabilmente mi fermerò prima o poi, probabilmente qui, probabilmente lì. Non è un atto dove uno dice c'è la conseguenza e il pericolo in immediato. È come quello che abbiamo detto nello spirituale. Se uno è messo davanti alla Avodah Zarah, allora lui dice no, ma sia, non si può, c'è un anticorpo, quasi sistema immunitario spirituale automatico. Ma quando è una cosa meno importante, tra virgolette, allora è come quello che fuma, che dice, vabbè, sì, vabbè, veramente, dovrei, forse, però, quando sarà il momento, o avrò la forza, o qui, però non è così grave. È una dinamica simile, come sentimento, e quindi anche come comportamento. Allora, ecco perché dico... Possiamo fare l'esempio del suicidio spirituale, no? Tra virgolette. Diciamo, il rimedio, l'antidoto, diciamo, a questo sentimento, che l'abbiamo definito molto chiaramente come uno spirito di follia, che è un esempio che sta veramente molto, molto perfetto, allora per essere guarito dallo spirito di follia, ovviamente, è una lotta anche. Non è una cosa che prendi la pasticca e sei guarito da questo spirito di follia. Però è importante sapere che è uno spirito di follia. È importante capire questa dinamica per poi iniziare la lotta, per poi confrontare il problema, eccetera. Però se siamo all'oscuro di tutto ciò, allora siamo... cioè uno rimane come il cieco che va avanti però non sa dove finisce. Qui invece stiamo dicendo, abbiamo definito la cosa in maniera molto chiara, che ci aiuta, si dice in detto comune, che conoscere la malattia è già metà della cura. Perché chiaramente già sai cosa stai andando incontro. E lo eviti, e comunque se già ci stai è difficile evitare, però HaKadosh Baruch Hu ci ha creato con lo spirito di follia dentro, quindi non è che possiamo... non possiamo prescindere da questo spirito di follia, ma possiamo lottare e vincerlo volta per volta. Non è una conquista totale, mai, se non che si parla dello tzaddik, che è una cosa rara lo tzaddik. I maestri dicono che HaKadosh Baruch Hu ha visto che i tzaddikim sono pochi e li ha sparsi per le generazioni. Un po' qui, un po' lì. Però uno tzaddik non è una cosa normale, non è un essere umano normale, tra virgolette. È un dono di Hashem, una cosa particolare. Noi persone normali siamo proprio, il DNA spirituale è quello della lotta costante. Allora è vero che c'è questo spirito di follia, ma è anche vero che bisogna realizzare, bisogna avere chiaro nella mente l'idea che è uno spirito di follia che man mano... con la vita, con i comportamenti, con le piccole lotte quotidiane, questo è il modo che si conquista piano piano. E poi, come tutti i batteri e i virus, si sviluppa anche lo spirito di follia, diventa più intelligente, si adatta alla nostra crescita. I Hasidim dicono che il Yetzer Hara può anche venire con un bel cappello, una barba e una veste hasidica, per dare dei suggerimenti che sembrano molto importanti. Più chiaramente come un virus si adatta al luogo in cui abita, al luogo al quale si attacca, e però questo ci aiuta molto a capire questa dinamica, ad iniziare a entrare nell'ottica. Deve sapere che deve prendere coscienza dello stato in cui si trova. Non è sempre facile. Certo. Verissimo. Sa che sta andando in quelle... Uno può farle come, non se ne accorge nemmeno. Verissimo. Ecco perché stiamo studiando questo. Questo che dico, sì, questo ci aiuta a prendere coscienza, a capire le dinamiche anche. Certo. No? Non è che viviamo in una bolla semplice dove A, B uguale C. La vita è complicata, noi siamo complicati, ogni cosa è composta da tanti elementi, però è importante sapere le generalità delle cose, no? Come funziona. Ok. No, ma nel caso in cui sì, una persona ci fosse invece una convinzione, cioè qui abbiamo parlato non del rimedio. Giusto, non siamo arrivati ancora al rimedio. Sì. Qui abbiamo parlato del problema. Perché bisogna capire il problema prima. Nel sì, caso in cui ci fosse comunque una persona, il suo modo di fare, di agire, di confrontarsi e via dicendo, ha la convinzione. Quindi diciamo che questo... Ha la convinzione di essere nel giusto, comunque di avere quel comportamento che è quello convenzionale, diciamo, no? Sì. E quindi questo spirito di follia che lui ha dentro, no? Lo ha conquistato in quel momento. Lo ha conquistato interamente. Ok. E quindi, cioè, magari anche dal di fuori che uno cerca di portare a farlo ragionare o comunque di fargli capire che questo spirito di follia l'ha preso totalmente. Ok, allora tu stai chiedendo come possiamo applicare quello che stiamo studiando noi sul mondo reale, a chi non studia, a chi non approfondisce queste cose ed è convinto che, come dicevamo prima, tutto è liscio e tutto è come nello schema indicato dallo spirito di follia, diciamo così, no? Allora, questa è una domanda molto generale e credo che la risposta più indicata, secondo quanto abbiamo visto dai nostri maestri, è la cosa più semplice in assoluto, di cercare di coinvolgere le persone con le mitzvot pratiche, non fare filosofia. Fare. Perché fare, il cuore segue le azioni, c'è scritto. Allora tu puoi, se uno sta in quella bolla, puoi parlare da oggi fino all'anno prossimo, non aiuterà niente. Anzi, ancora peggio, lui è già e poi si rafforza, esattamente. Convinto di stare nel giusto. È convinto di stare nel giusto e se tu lo vuoi convincere diversamente, lui si convince ancora di più nella sua posizione, perché la deve difendere. Diventa una discussione, è un dibattito. Nessuno ha mai avuto successo con un dibattito. Anche se vinci il dibattito, è tutto teoria. Come diciamo prima, paradossalmente, intanto fai, devi fare. Magari esatto. Cosa fai vedere? Che vuoi dire? Cosa c'ho 200 fa, in testa? Prima metti in atto. No, le mitzvot. Allora, questo qui non... Vediti, lo invidi a mettere tefilin. Metti tefilin in un giorno. Vedi che piano piano si cambia la situazione. Milioni di volte lo vediamo. Sempre. Queste cose si accumulano nella persona, nella sua neshama, e poi iniziano a brillare, a farlo ragionare in altre maniere. Come ricevete una volta, creiamo i recipienti. Bravissimo. Bravissimo. Così bisogna fare. Giusto, si creano intanto i recipienti, le mitzvot sono recipienti. Poi quando c'è la luce, almeno c'è dove ricadere quella luce. No? Invece se mancano quelle, allora poi non c'è il pratico, manca una cosa essenziale. Sì. Sì. Questa continua lotta, istinto a trasgredire, è sempre verso il campo negativo, non siamo ancora nel neutro. No, giusto? Cioè è una tendenza, è vero che adesso stiamo parlando... Un qualcosa che si sa che proibito. Diciamo che adesso stiamo vedendo la parte più estrema. Ecco. Sì, sì, sì, sì. Però no, non per escludere quell'altra, no, per no, spiegare no, per mettere più a fuoco la, diciamo, come funziona lo schema delle cose. Cioè, gli esempi che abbiamo fatto sono del campo estremo, sì. Io vedo se uno c'è la bilancia. C'è la bilancia, vero? Si mette una pietra qua, poi una pietra più pesante, e deve... Beh, ti devo dire una... Ti devo fare i complimenti, perché anche Maimonide ha fatto questo esempio. Che? Il Rambam dice... Rambam, Maimonide. Il grande Rabbi Moshe Ben Maimon ha detto che bisogna sempre vedere se stessi e il mondo intero come una bilancia equilibrata, dove un minimo atto dalla parte del positivo può far andare la bilancia nella maniera voluta e può dar merito alla persona e al mondo intero. E può essere, lui scrive, può essere l'ultimo passo necessario per far venire il Mashiach. Allora, se uno pensa che è tutto sempre equilibrato, anche questo lo aiuta ad uscire dallo spirito di follia di cui parlavamo, no? Esattamente. Ok, credo che concludiamo qua questa volta, che c'è tanto da riflettere, e se Dio vuole poi approfondiamo ancora.